Radio Popolare presenta La Caccia, Caccia all'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno, l'ultimo menù dell'annata prevede di parlare dei liquidi infiammabili e materiali interessanti, di stigmi della genialità, nonché dell'unica legalità possibile.